si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. E ben ritrovati cari ascoltatori, anche oggi un menù interessante di belle storie che vi andiamo a riproporre dalla programmazione di Si può fare. Questo è quello che prevede il palinsesto estivo di Radio 24. Noi siamo in onda ogni sabato a mezzogiorno, non siamo in onda invece la domenica, ma non preoccupatevi perché le storie più belle ve le facciamo risentire proprio nell'appuntamento di oggi. Anche oggi un menù variegato, andremo prima di tutto a Catania, dove alcuni bambini in compagnia di alcuni adulti hanno dato vita ad un campetto di calcio, una cosa che può apparire normale per una città e una periferia dove avere un campo di calcio è all'ordine del giorno, e invece ci sono ancora città e periferie dove questo non è normale, non è la norma. E allora ci era piaciuta questa storia, ve la faremo risentire. Poi vi faremo ascoltare anche quell'ingegnere di Udine che ha progettato una casa di legno e che ha avuto la certificazione unica al mondo per la qualità del suo progetto. E poi risentiremo il mitico Roberto Chiappella da Milano col suo progetto della biblioteca in condominio. L'avevamo sentito a marzo quando il progetto stava decollando e avevano appena autorizzato la biblioteca in un condominio, che è una cosa un po' particolare, una storia anche questa che ha fatto il giro dei giornali e delle televisioni. E poi insomma ancora Lock, il sito dove puoi affittare tutto, dagli scarponi a sci alle macchine per fare il fumo in discoteca. E a proposito di discoteca, risentiremo frate Alfio, il frate francescano, anche lui un personaggio mitico di Si può fare, che va nelle discoteche ad evangelizzare i ragazzi mentre sono lì che ballano. Ne sentirete insomma delle belle. Poi chiuderemo con una storia straordinaria, questa è davvero una bella puntata. Gianni Maddaloni della omonima palestra di Scampia, che sarà interpretato da Beppe Fiorello in una fiction che la Rai proporrà a settembre, L'oro di Scampia, una storia straordinaria. Restate con noi, andiamo ad iniziare. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E vabbè, con De Gregori siamo andati sul sicuro, perché quando parliamo di campetti di calcio di periferia, almeno a noi che abbiamo questa età, ecco, forse ci viene in mente questa canzone qua. La notizia questa volta è che a Catania, in un quartiere di periferia, è stato recuperato un pezzettino di terra, è diventato un campetto di calcio. Ed è una cosa positiva che ci piace di raccontare, perché un pezzo di vita è stato sottratto al degrado. Noi ringraziamo per averlo fatto e per essere qua Tuccio Tringale, buongiorno. Buongiorno a voi, per me è un piacere. Consigliere comunale di Catania e una delle persone che ha coordinato i ragazzi che poi in prima persona hanno fatto questa impresa qua, i ragazzi dell'associazione Stimpfel. Stimpfel, del quale io sono il presidente, ecco, non è che presentarmi di più come presidente dell'Andrea Stimpfel, perché è un'associazione, noi abbiamo 200 sì. bambini appunto dei quartieri periferici e diamo la possibilità di giocare in maniera gratuita nella nostra struttura. Senta, ma è stato più bello fare questa impresa con i ragazzi oppure poi ritrovarsi il campetto di calcio e giocare la prima partita? Guardi, è tutto bello, perché quando si lavora con i bambini, con dei bambini che vengono dai quartieri, che ormai purtroppo le istituzioni hanno abbandonato, non parlo soltanto di oggi, ma parlo anche di ieri e forse anche dell'altro ieri. Sono problemi che ci portiamo dal dopoguerra. Speriamo di non parlare per il domani, magari questo no, ci auguriamo. Speriamo, ci stiamo lavorando, cerchiamo di sì. con i bambini di far crescere loro, che per loro è un diritto, no? Fare capire che per loro avere un campo di calcio è un diritto. Ecco, ma ci racconti un po' anche com'è andata, no? Cioè, chi ha avuto l'idea, cosa avete fatto? In questo campetto ci giocavo io quando ero piccolo e ci giocava anche mio padre. Quindi mio padre ha 60 anni, quindi stiamo parlando almeno di 50 anni fa. Ed è stato sempre abbandonato e sempre, diciamo, lasciato lì senza manodopera e senza niente. Con i bambini della nostra associazione, che loro, noi affittiamo una struttura per farli giocare, perché vi faccio la premessa che San Cristoforo, che è uno dei quartieri più più popolosi della città e anche un po' più abbandonati della città, è sprovvisto di un impianto sportivo, cioè stiamo parlando di un quartiere di 60-70 mila abitanti. Pensate, senza un impianto sportivo, una follia assoluta. Senza un campo di calcio, sì, è una follia assoluta. E noi cerchiamo un pochettino, quantomeno, di garantire il minimo indispensabile a questi bambini, e comunque la nostra educazione parte dal fatto che i bambini devono capire che quello là è un diritto, cioè avere un campo da calcio, avere l'istituzione, avere la scuola è un diritto. E allora dove non possiamo agire? Sulle scuole, sulle cose purtroppo possiamo fare poco, ma sì, quantomeno sugli impianti sportivi cerchiamo di sbattarci un po' le maniche e quantomeno creare qualche piccolo spazio dove loro si possono dare sfogo. Stiamo parlando di uno dei quartieri col più alto tasso di criminalità minorile, col più alto tasso di spaccio nella città, quindi stiamo parlando di uno dei quartieri veramente difficili. Ecco, però una cosa mi interessa di chiederle, lei ha parlato di rimboccarsi le maniche, no? Cioè, come avete agito sulla motivazione dei ragazzi, che poi insomma, si è trattato anche di fare qualcosa, no? Si dice spesso che i ragazzi non hanno voglia, che pensano chissà da altro, stanno lì sul cellulare, e invece siete riusciti come a buttarli in questa impresa? Ma basta mettergli l'idea in testa e subito loro l'hanno sposata con entusiasmo. Lei si figuri che abbiamo preso le reti dai pescatori, ci siamo fatti dare le reti dai pescatori con i gommoni con le gomme con i copertoni vecchi, abbiamo fatto la recinzione, l'abbiamo messi a bordo campo per come dire, chiudere la rete, abbiamo fatto tutto il lavoro con i mezzi, diciamo, di fortuna. Ed è stata un'esperienza bellissima soprattutto per noi, ma soprattutto per i bambini, perché sono venute le televisioni e sì, sono venute i giornalisti, e quindi per un loro momento è stato di gloria motivante. Anche per loro. Sì, assolutamente sì. La prima partita che avete giocato, che hanno giocato i ragazzini? Subito, diciamo che hanno giocato subito. Com'è finita? Subito. Ma è un pareggio. Ci sono divisi un punto. Ah, così, ecumenico, giusto per non deludere nessuno. Perché ancora si usa la partita fra la via X contro la via Y, i bambini che sono nati in quella via con i bambini che sono nati nell'altra via, ed è stata un'esperienza veramente bella. E noi con la nostra associazione siamo su strada, operiamo su strada, questi sono bambini che noi quando meno abbiamo cresciuto, sì, nella mia associazione è composta da ci sono io, c'è mio padre, c'è mio fratello, insomma una tradizione di famiglia. Sì, ma guardi, io sono nato in quel quartiere grazie al calcio, perché ho giochicchiato a calcio, sono riuscito un pochettino ad uscire dal quartiere, quindi mi piace ritornare per lasciare un segno anche fino alla C1, mi dice Franco Piantanida, sì, che di calcio se ne intende. Sì. Fino alla C1. E quindi questa cosa se la porta dietro, e oggi è riuscita in qualche modo a darla anche a questi ragazzi. Che i primi bambini che sono stati nella nostra associazione oggi hanno 20 anni. Qualcuno si è perso, qualcuno come no, si è perso? Si è perso nel senso che ha preso la strada che noi non consigliamo, per noi quelle sono le sconfitte. Perché dopo questo succede ancora, nonostante, insomma, non basta passare per la vostra associazione per avere garantito un futuro, però ci si prova, insomma, è questo, no, il senso? Assolutamente no, però quantomeno cerchiamo magari quelli là che ci stanno sempre vicino, fino ai 20 anni, fino ai 21 anni, poi di trovare qualche sistemazione lavorativa. Ora, per raccontargli un aneddoto, un ragazzino di 20 anni sta lavorando in una pizzeria e come primo lavoro della sua vita è molto felice, è contento. Queste qua sono le soddisfazioni che noi andiamo a cercare. Certo, vabbè, poi magari vediamo anche di sfornare qualche calciatore, perché non c'è poi nulla di male, no? Se uno ha un impianto sportivo dove allenarsi, c'è più possibilità di arrivare anche in questo. Grazie per averci raccontato e per aver realizzato soprattutto questa bella storia, Tuccio Tringale da Catania. Grazie ancora, buona giornata e buone partite sul campetto. Grazie, una buona giornata a voi, e faccio un appello a chiunque sia interessato a conoscere la nostra associazione, a chiunque sia interessato a contribuire alla nostra associazione, noi siamo qui. Abbiamo chiesto un aiuto anche al Milan, quindi voi siete... Noi siamo più vicini, glielo trasferiamo. Ma come si fa per darvi una mano? Ci avete un contatto? Se no rimane così. Guardi, noi andando sul sito, Andrea Stimpel, che era un ex giocatore che è morto di leucemia, magari cercando su Inel, su Google, i nostri contatti ci sono. Quindi chiunque vorrebbe partecipare, è effettivamente che il nostro è un progetto serio, cioè a noi fa un enorme piacere. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E provo con impegno a interpretare la realtà, cercando il lato buono delle cose, cercandoti in zone pericolose, ai margini di ciò che è convenzione, di ciò che è conformismo, di ogni moralismo. E il mondo mi assomiglia nelle sue contraddizioni, mi specchio nelle situazioni, e poi ti prego di rivelarti sempre ciò che vedo. Io so che tu mi ascolti, anche stavolta non ci credo. Vuoi andare a casa? A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. Voglio andare a casa, ma a volte non è così semplice. Se la casa, per esempio, è una casa di legno tutta ecosostenibile che si vuol costruire su un terreno di propria proprietà. È la storia incredibile che noi abbiamo saccheggiato dal sito ilcambiamento.it dell'amico Daniel Tarozzi, titolo Vivere in Yurta, la battaglia di una famiglia contro la burocrazia italiana. Salutiamo Barbara Bertinetti. Buongiorno Barbara. Buongiorno a voi. Che è la rappresentante di questa famiglia che sta conducendo questa battaglia contro la burocrazia, perché voi avete comprato un terreno tempo fa per costruirci sopra la vostra bella casettina di legno, avevate dei progetti, un bed and breakfast eccetera eccetera, andarci ad abitare, e poi vi siete scontrati contro un muro di difficoltà. Che è successo? Sì, noi abbiamo comprato questo terreno in Val Chiusella, che è una valle bellissima vicino Ivrea, 3 anni fa, sì. E avevamo fatto un progetto per un bed and breakfast, una casa in legno ecologica. Abbiamo cominciato i lavori e poi abbiamo chiesto il mutuo, che non ci è stato concesso essenzialmente perché siamo commercianti e quindi dalle banche siamo un po' visti così, con insomma non siamo affidabili, ecco, diciamo così. E allora abbiamo provato a modificare il progetto e abbiamo chiesto al comune, invece di costruire questa casa di legno, di costruire una yurta. Che è una... Che cos'è intanto? Definita. Scusa? Appunto, che cos'è intanto? Possiamo definire in maniera un po' semplicistica come una tenda. Sì. È una tenda tipica dei popoli della Mongolia, che però è molto resistente, ha un'ossatura in legno, possiamo dire, sì. Ricoperta da vari strati di tessuto e da uno strato di feltro, che è quello che gli dà poi il calore interno. Ecco, chi non è mai entrato in una yurta forse non può capire. No, però, penso di no. Ecco, però ci sono le foto. Rimane subito affascinato. Si può immaginare, insomma, no? Un po' che tipo di atmosfera, che tipo di cosa volete creare. Esatto. Una struttura che dentro, insomma, ci si lascia subito il cuore appena ci si entra. E oltretutto è sempre inserita molto bene in ambienti montani, perché da lì arriva, dalle steppe asiatiche, dai monti asiatici. Sì. Ma il comune ci ha negato il permesso dicendo che non si inserirebbe in quel contesto di un paesino di montagna, e oltretutto abbiamo anche chiesto di mettere 2 tende in più da affittare come bed and breakfast, e anche questo ci è stato negato, cosa che invece molti altri paesi, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, noi abbiamo girato in yurta, è permesso. No, ma io immagino la scena, no? Quando vi siete sentiti dire che non si inserisce nel contesto. Io penso a come sorgono i grattacieli, i funghi, no? Orrendi da tutte le parti, di cemento armato in pieno centro delle città, e quelli si inseriscono nel contesto. Uno che si va a costruire una yurta in un terreno, ora non voglio dire che siate a casa di Dio, però insomma non è neanche che siete proprio in centro a Milano. E questo non si inserisce, è paradossale, per usare una parola leggera, no? Esatto, ma poi siamo sicuri che avremmo creato molto interesse, un turismo rispettoso, un turismo ecologico. Oltretutto, appunto, la yurta, essendo fatta di questi materiali, non andiamo assolutamente né a inquinare né a incidere sul terreno in maniera permanente, cioè il giorno che cambiamo idea, ce ne andiamo, smontiamo e via. Non rimane assolutamente nulla del nostro passaggio. Ma è questa situazione che si è creata, è cambiata nel tempo, oppure siete rimasti fermi con questa impossibilità, questo diniego? Voi cercate di portare avanti, perché qual è poi il vostro progetto? Creare anche un bed and breakfast, no? Come attività commerciale. Un bed and breakfast, un turismo ecologico, perché sì. Secondo noi la Val Chiusella ha un potenziale turistico di questo turismo rispettoso molto, sì. Molto grande, ci sono molti francesi, molti milanesi che vengono. No, il comune assolutamente non si è più fatto sentire, sono usciti diversi articoli sul Risveglio, la Sentinella, sì. Su giornali online, io ho scritto anche una lettera al comune chiedendo un altro incontro, niente. Ma è pazzesco che nel paese, l'Italia intendo, dei condoni edilizi, delle case abusive da tutte le parti, degli alberghi lungo le coste, alberghi non finiti lungo le coste italiane che hanno rovinato interi paesaggi, non ci sia la possibilità di costruirsi una cosa che poi si può smontare in 5 minuti, esatto. Come questa, sostenibile, e che tra l'altro darebbe luogo anche a una mini attività commerciale. Cioè il filo rosso oggi delle storie si può fare è quello della burocrazia, che impedisce, non si sa per quale ragione, c'è un accanimento personale, ce l'hanno con voi forse in comune, no? Non lo so, cioè noi pensavamo di fare del bene, anche perché comunque è un comune che si sta spopolando in maniera abbastanza drastica, perché è ovviamente un comune piccolo di montagna, non c'è lavoro sul posto, ci sono due piccolissimi ristoranti, un giornalaio, un bugigattolo piccolissimo, noi avremmo portato una famiglia, due bambini, sì, turisti che sarebbero andati a mangiare nel ristorante, a comprarsi il giornale, cioè tutto un giro che avrebbe portato solo bene al paese. Mi suggeriva Franco Piantanida dalla redazione, forse è perché pensano che vogliate aggirare per non pagare l'IMU, perché uno se c'ha la yurta non paga. Allora, in Francia stanno per approvare la legge, stanno per mettere l'IMU sulla yurta, perché ecco, è talmente diffusa. Cioè voi volete pagare anche l'IMU sulla yurta, sì, cioè voi volete fare questa cosa qua in regola e quindi anche eventualmente pagando i 50 euro, perché insomma i metri quadri, esatto, quanti metri quadri sarebbe questa? Ma sarebbe una trentina di metri quadri, una cosa. E il vostro terreno dove si trova, in che zona si trova? Ma è fuori dal paese, quindi neanche dico in mezzo alle case di pietra, di legno che ci sono. È molto visibile perché si vede arrivando dal paese, però non è nel centro storico assolutamente. È in una collina verde, per cui... Quanto costerebbe costruire questa abitazione per voi? A noi costerebbe dai 3.000 ai 5.000 euro, per cui una cosa veramente... Quindi capite che è un investimento tutto sommato... insomma, affrontabile, abbordabile, che però potrebbe dare a questa famiglia e forse anche ad altri che potrebbero copiare l'idea, insomma, la possibilità di dare una svolta anche alla propria vita, no? In esatto, un modo rispettoso anche dell'ambiente. Esatto, speriamo, cioè non è che appunto qualcuno per chi ci senta. Abita in centro città, ma per chi abita in campagna, in collina, in montagna, è un'alternativa validissima, ecco, al cemento. Barbara, voi che fate? Andate avanti, cercate di realizzarlo questo progetto o vi arrendete? Allora, noi non ci arrendiamo, nel senso che proveremo di nuovo a chiedere un incontro col comune, però devo dire che con questi articoli che sono usciti molte persone ci hanno chiamato, ultimamente un campeggio vicino a Mondovì, ci hanno detto che ci ospiterebbero in yurta, creando un campeggio lì di yurte, sì, e sinceramente noi stiamo valutando anche questa possibilità. Ci dispiace per la Val Ciusella, perché ci tenevamo davvero tanto, però se fanno così, se non ci vogliono, ecco. Cioè, dopo la fuga dei cervelli, anche la fuga delle yurte, è questo che accadrà, insomma, il destino dell'Italia. Esatto. Vabbè, insomma, in bocca al lupo, poi se vi trasferite, o comunque se ce la fate, fatecelo sapere, perché veniamo a festeggiarvi, e magari veniamo anche a farci un giro da voi. Siete tutti invitati in yurta. Grazie, Barbara. Barbara grazie Bertinetti, insomma, avete sentito la storia. Adesso invece andiamo a Milano per raccontarvi dell'evoluzione di una iniziativa di cui avevamo parlato qualche settimana fa, aveva fatto molto discutere, l'iniziativa di una biblioteca in condominio. Salutiamo e ritroviamo con grande piacere Roberto Chiappella. Buongiorno Roberto. Buongiorno. L'avevamo lasciato qualche settimana fa, adesso non ricordo più esattamente quanti giorni fa, alle prese con la riunione di condominio nel suo palazzo a Milano in via Rembrandt, è così? Sì, giusto. Per avere tutte le necessarie autorizzazioni per poter portare avanti e sviluppare il progetto di questa biblioteca in condominio, un'idea più unica che rara, che aveva però attirato grande interesse, grande attenzione, un progetto di cultura e di socialità microscopico, ma che era stato in grado di mettere in campo molte energie. Com'è andata l'assemblea di condominio? L'assemblea di condominio diciamo che è andata bene, è andata che il condominio ha approvato all'unanimità l'esistenza della biblioteca nel condominio per il condominio. Sì. Ah, quindi poi, no, sì, non è aperta perché voi volevate farla? Sì, sì. No, però no, c'è un altro pezzo da dire. Sì? Abbiamo votato per l'assemblea aperta agli esterni, praticamente, no? Sì. Bene, la votazione è andata, diciamo, bene anche quella lì, nel senso che quasi, perché lì ci voleva l'unanimità, quindi su 72 condomini ci volevano 72 sì. Dura, Il problema è che erano 71. No, ce n'era uno che era contrario. Ce n'era uno che era contrario. E chi è? Perché quindi... è contrario? Vabbè, adesso questo non si può dire. Non si può entrare per la privacy, giustamente. Non è il caso. Sì. Vabbè, niente, praticamente siccome avevamo preparato una specie di carta di riserva, sì, e praticamente abbiamo chiesto una prova di 3 mesi. Questa prova di 3 mesi l'abbiamo iniziata, anzi adesso la stiamo mettendo a punto, e quindi dopo metteremo degli orari e per 3 mesi cercheremo di fare il meglio possibile. Ma non ho capito, la prova sarà solo per gli interni? Visto... No, per gli interni già funziona. Ah, ok, per gli interni funziona, è stata approvata. Per gli esterni farete una prova. Quanti libri avete adesso? Adesso ne avremo, qui arrivano a fiumi. adesso saranno più di 1.600, 1.700, però adesso faccio arrivare tutti i libri, non lo so. Sono tanti, perché io avevo detto anche l'altra volta, no? Chi di noi non si è trovato a volte col spazio che non c'è mai a disposizione nelle case e qualche libro che è doppione o che avanza o libri di scuola eccetera, allora l'idea, no, di dove li porto, ecco, in questo caso se li portate in via Rembrandt, insomma, Roberto è felice perché può dare nuova vita. Devo aggiungere una cosa che praticamente abbiamo cercato, forse mi hanno trovato. Facciamo un collegamento con un altro luogo, che era questo che volevo, no? Che queste cose qui magari andassero avanti, che iniziassero in qualche altro posto, e pare che qualcosa di simile stia crescendo a Gratosoglio. Con precisione non so bene, perché adesso stiamo a, come si può dire, abbiamo appena avuto dei contatti, e probabilmente un contatto di collaborazione. Non è una cosa come la nostra, però è una cosa che potrebbe essere simile. C'è già un effetto contagio, insomma, qualcosa che si muove. Sì, si muove, ma io ho visto molto interesse da parte di tutti e le persone che vengono veramente coinvolte, nel senso che hanno bisogno di questa cosa che è la socialità. Ecco, a noi ci interessava anche registrare il progresso di questa iniziativa. E poi, Roberto, le voglio chiedere un'ultima cosa, in chiusura, 30 secondi. Qual è il suo segreto per realizzare cose apparentemente impossibili? Perché sappiamo che l'Italia è tutta bloccata, non si riesce a far nulla. Lei invece si è alzato una mattina con questa idea e ce l'ha fatta. Il segreto è che i posti esistono dei posti vuoti, ci vuole sempre chi comincia. Io ho cominciato, questo è il segreto, che dovrebbe essere il segreto. Cioè muovere la prima pedina, poi si muove tutto. I generali, i colonnelli, le guerre, tutto quanto è nato sempre da una persona, è cominciato uno. Adesso non mi faccia l'esempio della guerra, però perché è un esempio brutto. Sto dicendo che c'è sempre uno che comincia. Chiaramente io ho cominciato questa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio andare a Grande Fratello, serata in discoteca, la mia foto nella teca, voglio essere come più di Buddha, niente più di Buddha. Non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì. Insomma, tutto quello che non si può avere perché non si può avere, dicono i Vallanzasca. Invece c'è un nuovo sito che si chiama locklock.it che vi aiuta ad avere un po' tutto quello che vi serve. È un sito dove si affitta di tutto. È un'iniziativa nata da poco, che tra l'altro in Italia non c'era, come sempre la importiamo dall'estero, e noi invece abbiamo convocato qua la sua animatrice e fondatrice, Michela Nosè. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora, ripetiamo intanto, perché lock? Allora, lock perché ricorda le due azioni, metta a noleggio e prenda a noleggio, perché questa piattaforma dà la possibilità a chiunque sia di prendere a noleggio, ma anche di mettere oggetti propri in condivisione, quindi a noleggio. Ricorda un po' locazione. Perfetto. Era per uscire un po' dagli affitti, noleggi spesso usati. Ok, un sito che c'è da poco, perché siete partiti a metà marzo. Sì, con Fa la cosa giusta, sì, siamo partiti, una mia idea nata a ottobre del 2012, e ci ho lavorato dietro parecchio, sono riuscita ad andare online a marzo, il 3 marzo in realtà. E che cosa si può affittare? Perché naturalmente è un'idea questa che può aiutare nella ricerca del risparmio, perché se uno ha bisogno di qualcosa, anziché comprarselo, certo ci sono dei posti specializzati dove affittare gli sci, però bisogna andare direttamente in montagna o altre cose. Invece voi mettete insieme un po' tutto e quindi diciamo che rendete questa possibilità, ecco, di risparmiare. Sì, perché LockLock vuole proprio essere la prima piattaforma, un po' un collettore per il noleggio, ma che dà per la prima volta anche la possibilità ai privati di noleggiare e di mettere a noleggio.

Noi siamo francescani, sì, figli di San Francesco. Ecco, come dicevi tu, vicini o lontani, noi abbiamo preso da esempio Francesco e cerchiamo di stare in mezzo alla gente, in mezzo ai giovani, lì dove i giovani stanno, quindi nelle università, nelle discoteche, nei pub, per strada, nelle palestre, nei luoghi di aggregazione. Chiaramente anche nei locali, in discoteca, certo. Ecco, ma le facce dei ragazzi quando vi vedono arrivare? Le facce dei ragazzi quando li vedono arrivare sarebbe da farci una trasmissione televisiva. Perché la prima cosa è convincerli che non è la promozione di un nuovo prodotto. Pensano a qualcosa di pubblicitario, un'invenzione, una carnevalata, perché giustamente avete un abbigliamento, insomma, è proprio quello classico del frate francescano. Classico, no? Sì. Sandalo e vestito marrone e cintura coi nodi, quello classico, sì sì. E quindi la prima cosa è convincerli che non siamo una trovata pubblicitaria. Poi si accorgono che siamo veri. Noi facciamo così, ti spiego un po'. Noi entriamo, prendiamo chiaramente contatti col gestore un po' prima, e entriamo, salutiamo un po' i ragazzi così, poi facciamo un balletto, perché si può lodare Dio e la vita chiaramente anche con il corpo, e quindi già i ragazzi vederci un po' ballare al ritmo della loro musica, no? Ci rimangono sorpresi, questo ci serve un po' per attirare l'attenzione. E poi uno di noi col microfono saluta i ragazzi con molta semplicità, sì, e gli diciamo questo, che la vita di tutti, la vita loro, la vita nostra è un dono, è una cosa bella, e che i sogni, i desideri dicono chi sei, dicono che sei fatto per cose grandi, per spendere la vita in un progetto grande, e chiaramente che sei figlio di Dio e che c'è un Dio che ti ama. Poi restiamo ancora un po' lì. Ma tutte cose che vengono accolte, naturalmente, insomma, ci sarà anche un po' di gestione da parte di chi, insomma, dei gestori dei locali. Però voi siete lì scoperti, il vostro viso di fronte a quello dei ragazzi, che magari saranno anche un po' sudati, un po' col tasso alcolico. Un po' alterati. Sì, sì. E si riesce a far arrivare questo messaggio? Guarda, si riesce, ti dirò anche che veniamo poi, vabbè, chiaramente postati su YouTube, su Facebook, da tutte le parti, ripresi dai telefonini. E poi, tanto però, ormai anche il Papa twitta, quindi non c'è problema. E poi quando però avviciniamo i ragazzi a tu per tu, loro vengono a salutarci, riceviamo tanti ringraziamenti. Perché comunque sentono che è un qualche cosa rivolto a loro, che spassionatamente... Sì, al di là della fede questo, sì. Veramente, al di là della fede, sentono che qualcuno è lì perché gli vuol bene. Ma non a caso la curia manda voi francescani, perché siete quelli forse più che avete questa capacità di arrivare proprio direttamente, con semplicità, con freschezza anche, no? Si sente anche da... Stare in mezzo, questo davvero l'abbiamo imparato da Francesco. Ecco, ma io una cosa vorrei chiederti, frate Alfio, a questo punto, no? In questa settimana cruciale col Papa, eccetera, anche per voi che fate, insomma, un lavoro, tra virgolette, completamente sul campo, no? Lontano dalla curia, dal Vaticano, lontano non in senso negativo, ma insomma proprio forse anche fisicamente, cambia qualcosa per voi anche con queste dimissioni del Papa, questo rimettere tutto in discussione, oppure non molto, insomma? Guarda, cambia tutto e non cambia fondamentalmente nulla, perché il Vangelo per noi rimane quello, rimane il messaggio di Gesù, di amore e di... È un messaggio che ogni vita è preziosa, che questo amore è per tutti. Certo che cambia, perché ci troviamo in un tempo in cui tutto è rimesso in discussione a livello non solo della Chiesa, guardiamo solo il modello politico, economico in cui ci troviamo a vivere. Però ti dirò che, per esempio, nessuno dei ragazzi ha portato la questione del Papa, perché capivano che il nostro essere lì era riferito a qualcos'altro, non, quindi polemiche o discussioni pochissime, quasi niente, in questa settimana chiaramente, quando siamo andati in giro in altre città questo contesto non c'era.